Il terzo anello. Effetto Terra. Di Silvia Zamboni. Buongiorno agli ascoltatori di Radio 3 da Silvia Zamboni. Riprendiamo ad occuparci di difesa dell'ambiente e di progetti realizzati da città italiane ed europee per contribuire a ridurre le emissioni dei gas ad effetto serra e il consumo di risorse naturali. Oggi in particolare vorrei proporvi progetti che promuovono il cambiamento degli stili di vita individuali. Si tratta di esperienze che ci fanno riflettere sulle ricadute del nostro modo di consumare energia, cibo, acqua. Ci aiutano a valutare gli effetti del nostro modo di spostarci, di illuminare, di rinfrescare o di riscaldare le nostre case, secondo naturalmente le stagioni, i nostri uffici. Quali e quanti rifiuti produciamo. Ma come si calcola la pressione che esercitiamo sull'ambiente con il nostro modo di consumare? Un metodo scientifico per calcolare questo impatto c'è, è la cosiddetta impronta ecologica. È un indicatore ideato da Matthias Wagernagel e da William Rees. Questo sistema mette a confronto quanta natura abbiamo a disposizione e quanta ne consumiamo. Tenuto conto che su 51 miliardi di ettari della superficie terrestre, solo 12 sono produttivi e questi 12 miliardi di ettari produttivi devono soddisfare i bisogni di oltre 6 miliardi di esseri umani. Ma prendiamo l'Italia. Il nostro paese ha un'impronta ecologica di 3,8 ettari a persona. Vuol dire che noi italiani consumiamo risorse naturali come se il territorio italiano fosse esteso 4 volte l'estensione reale del nostro paese. Se tutti vivessero come gli italiani ci vorrebbero più di 2 pianeti a disposizione. E se tutti vivessero come i cittadini americani, che consumano ancora più di noi, ce ne vorrebbero addirittura 5 o 6. Ma se poi prendiamo un paese come l'Etiopia o come la Somalia, vediamo che l'impronta ecologica si abbassa drasticamente. Oltre a questa disuguaglianza, quindi tra paesi, l'impronta ecologica ci aiuta a mettere in luce il consumo di pianeta che facciamo come razza umana complessivamente, che è un consumo molto al di sopra delle capacità di rigenerazione della Terra. In questo caso l'impronta ecologica globale della popolazione umana ci dice che da oltre 20 anni stiamo spendendo più natura di quella che abbiamo a disposizione. E i cambiamenti climatici potremmo considerarli come il primo sonoro campanello d'allarme che dovrebbe spingerci a cambiare stili di vita. Proprio in riferimento all'impronta ecologica, l'Associazione Culturale Italiana Green Accord, che è di ispirazione cattolica potremmo dire, ha promosso il progetto L'impronta ecologica delle parrocchie. È un progetto che coinvolge 1500 famiglie delle diocesi di Milano, Firenze, Prato, Pistoia e di Napoli. Sono 500 famiglie per ciascuna diocesi e sono state scelte nelle parrocchie di riferimento in maniera da creare un campione statisticamente significativo e socialmente rappresentativo della popolazione umana. Con questo progetto, quindi l'impronta ecologica delle parrocchie, verrà monitorato e misurato sul campo l'impatto dei comportamenti e delle abitudini di consumo di 1500 famiglie italiane, per stimolare poi un cambiamento a favore di stili di vita ecologicamente più consapevoli della finitezza delle risorse naturali. Tra gli obiettivi del progetto, la produzione di un manuale per la salvaguardia del creato, che verrà presentato e distribuito ai parrocchiani, almeno un intervento concreto di riduzione dell'impatto ambientale da parte di una 50ina di parrocchie e la riduzione dell'impronta ecologica di almeno 600 delle 1500 famiglie coinvolte. Il Comune di Venezia ha realizzato un progetto che è stato intitolato proprio Cambieresti e che ha coinvolto oltre 1200 famiglie veneziane. Si è avvalso questo progetto della collaborazione di una lunga lista di partner, anche istituzionali, di associazioni, tra cui il WWF, che ha elaborato un questionario per calcolare l'impronta ecologica. Di Cambieresti ne parliamo con Mattia Donadel, che è stato il coordinatore tecnico della realizzazione del progetto. Buongiorno Donadel. Buongiorno. Senta, innanzitutto, com'è nata l'idea di questo progetto? L'idea di questo progetto è nata nell'ambito del piano energetico comunale, nel senso che il piano energetico prevedeva tutta una serie di schede e quindi di interventi, e tra queste c'era appunto il coinvolgimento della cittadinanza nella riduzione dei consumi energetici. Se parliamo di energia, ma dove energia possiamo declinare anche dal lato dei rifiuti, dal lato dell'acqua, dal lato della mobilità. Vi siete occupati di più settori, esattamente di quali settori di consumi vi siete occupati? Allora, di 11 settori, e appunto energia domestica, quindi elettrica e termica, acqua, rifiuti, mobilità, animali, poi ancora alimentazione, insomma... Tutto lo spettro della vita? Praticamente sì. E come le avete scelte le famiglie? Erano volontari? Sì, assolutamente volontari. Abbiamo fatto una grossa campagna di comunicazione utilizzando il più possibile, intanto le reti dei partner coinvolti, sia le associazioni sia gli enti più grossi, poi ovviamente facendo un battage pubblicitario anche in città, e da ultimo abbiamo fatto un grosso evento al Palasport a cui ha partecipato tra gli altri Grillo e Pallante. Insomma, questo ci ha dato un po' la spinta a raggiungere le 1200 famiglie insomma iscritte. E il progetto poi come si è svolto? Diciamo così, noi abbiamo suddiviso le famiglie per gruppi di vicinato, quindi 49 gruppi in tutto il territorio veneziano, che comprende sia il centro storico, le isole, ma anche la terraferma, quindi Mestre, Marghera. Questi gruppi si sono incontrati mensilmente, sono stati seguiti da dei facilitatori, e ogni gruppo ha scelto tre temi sui quali misurarsi. Diciamo che i gruppi, più che essere gruppi di formazione, erano gruppi di condivisione. Oltre a questo, poi sono stati parallelamente messi, come dire, in cantiere tutta una serie di seminari, di laboratori pratici e di altri eventi. Molto spesso i proposti gestiti dagli partner che hanno comunque costruito il progetto insieme a noi, molti di questi seminari li abbiamo fatti proprio in relazione alle richieste che venivano dai gruppi. E quali erano queste richieste? Sì, siamo andati dall'autoproduzione dei detersivi, a ragionare appunto su come autocostruirsi i pannelli solari, insomma all'impronta ecologica, la pratica del compostaggio domestico, molti sono stati appunto di taglio pratico. Ecco, poi dopo a ciascuna delle famiglie abbiamo dato anche una guida che era anche scaricabile, e praticamente la guida era suddivisa in capitoli e c'erano tutta una serie di indicazioni, di spunti, diciamo, per mettere in atto un cambiamento nello stile di vita. È stato creato un sito internet che è stato un po' il punto di riferimento nell'ambito del progetto per tutti, per tutti coloro che hanno partecipato. E abbiamo fornito alle famiglie anche degli incentivi, prevalentemente incentivi di ordine materiale, quindi riduttori di flusso, le lampadine a basso consumo, le borsine per la spesa, però poi anche in termini di servizio, quindi la possibilità, non so, di fare l'analisi dell'acqua del rubinetto, di sperimentare il servizio di trasporto pubblico per un certo periodo e via dicendo, insomma. Quindi l'idea era quella non tanto di dare dei premi, ma di dare delle possibilità di praticare qualcosa di diverso. Sentiremo ora alcune testimonianze di persone che hanno partecipato al progetto Cambieresti. Questi testi li abbiamo tratti dalla pubblicazione Cambieresti, la sfida di 1000 famiglie alla società dei consumi, edito da Terre di Mezzo Editore. Sono senegalese, il mio nome è Falfallou e abito a Marghera, dove lavoro come saldatore in una ditta che fa impianti elettrici. Ho saputo di Cambieresti da una mia amica studentessa. Mi è piaciuto e ho aderito perché voglio migliorare nella mia vita e perché il progetto tratta di tematiche molto utili sul risparmio di gas, sull'acqua, l'energia elettrica, i rifiuti e l'alimentazione naturale, i prodotti naturali, insomma, l'impronta ecologica, argomenti che mi servono qui in Italia e sui quali potrò fare qualche cosa, anche quando andrò in Africa. E questa è la cosa più importante. Peraltro Cambieresti mi ha insegnato come trovare in Italia cibi naturali che mi mancavano da quando ho lasciato l'Africa. Lì mangiavo cose semplici e naturali e mi curavo con le piante attraverso la medicina tradizionale tramandata dai miei nonni. E qui in Italia che ho mangiato per la prima volta il cibo congelato. Solo io in casa mi sono interessato a Cambieresti e mi sono iscritto, però ho cambiato un po' anche il modo di vivere dei miei coinquilini. Hanno imparato ad esempio come risparmiare l'energia elettrica con le lampadine a basso consumo. Una mi è stata data dal progetto, le altre le abbiamo comprate in seguito, prima non le avevamo mai usate. E anche come dividere i rifiuti non lo facevamo, come ridurre il consumo di acqua con il riduttore di flusso, che mi è stato dato anch'esso dal progetto, e con una maggiore attenzione nei gesti di ogni giorno. Per me con cambieresti è cambiata l'idea guida, c'è una diversa consapevolezza, un diverso modo di leggere le cose e da lì discende tutto il resto. Abbiamo il potere di scegliere e cambiare i nostri stili di vita in maniera nuova e responsabile. Il progetto mi ha fornito diversi stimoli e buone pratiche. Come banca etica di cui sono diventato socio, o l'utilizzo delle auto comunali di car sharing, ma anche la mentalità con cui affrontare l'esistenza di questa modernità. Il mio carrello della spesa è ora pieno di materie prime, quelle che non posso fabbricare io, latte, farina, zucchero, caffè. Poi ci metto il mio lavoro e ottengo un prodotto di qualità. Non comprerei mai una cotoletta impanata o fiocchi per fare il purè. Recentemente ho rallentato la produzione di pane perché mi ci vuole almeno un pomeriggio a casa, ma non ho smesso di fare le merende, altro cibo che non comprerei più già pronto. Organizzo i pasti cucinando più cose insieme, sfrutto il calore residuo del forno spegnendolo prima della fine della cottura. L'acqua già calda della pasta scolata va nell'acquaio per lavare i piatti. Tiro fuori dal freezer le cose da scongelare la sera prima e le metto nel frigo. Così, scaldandosi, gli cedono il freddo facendo lavorare di meno. Sono comportamenti che alla fine vengono spontanei se ci si ripropone un uso efficiente dell'energia e delle risorse. Ho imparato nei laboratori come si producono a casa detersivi e detergenti. Ora faccio la lavatrice con il sapone di Marsiglia, anche se è difficile da trovare quello buono. L'ammorbidente è aceto con oli essenziali del profumo che voglio io. Lavanda riposante per le lenzuole, pianta del tè disinfettante per quando qualcuno ha il raffreddore, eccetera. Un'altra cosa che ho pensato e che non va bene fare un'intera lavatrice come se la biancheria fosse tutta un'enorme macchia. Allora pretratto lo sporco con sapone e olio di gomito, così posso poi usare meno detersivo e meno temperatura. Vi ricordo che siete all'ascolto di Effetto Terra su Radio 3 Rai. Collegato con noi è Mattia Donadel del Comune di Venezia, col quale stiamo parlando del progetto Cambieresti, che il Comune veneziano ha realizzato per promuovere il cambiamento degli stili di vita in senso più ecologico. Abbiamo appena sentito la testimonianza di alcuni dei partecipanti e sembra appunto che questo progetto abbia lasciato delle tracce. Vorrei proprio ripartire da qui con Donadel. Che ricadute pensa che abbia avuto il progetto Cambieresti? È servito davvero a modificare le abitudini dei partecipanti, come sembra appunto dalle testimonianze che abbiamo appena sentito, o una volta finito tutto è tornato come prima? E al di là del dato statistico che noi abbiamo anche monitorato, che ha registrato un effettivo cambiamento sia in termini di impronta ecologica sia in termini, come dire, di frequenza nell'applicare le buone pratiche, al di là di questo dato qui, la cosa che a noi più sta a cuore, insomma, è il dato qualitativo del cambiamento, nel senso che dopo il progetto, da un lato, sono nati nuovi gruppi di acquisto solidale. Che cosa sono i gruppi di acquisto solidale? I gruppi di acquisto solidale sono gruppi autogestiti di famiglie, di persone che decidono di acquistare direttamente, prevalentemente prodotti di tipo alimentare da produttori locali, preferibilmente biologici. È un modo, forse il modo più efficace, più diretto per cominciare a praticare un altro tipo di consumo, insomma un consumo critico e consapevole. E oltre a questi gruppi di acquisto solidale? Oltre a questi gruppi di acquisto solidale, alcune delle famiglie, diciamo circa 250 famiglie che hanno partecipato al progetto, che l'hanno portato a termine, hanno deciso di comunque mantenersi in rete, è nata la rete Oltre Cambieresti, e autonomamente queste persone hanno deciso di andare avanti nel lavoro cominciato con Cambieresti, quindi per esempio nell'ambito dei rifiuti hanno prodotto anche un film autoprodotto, hanno messo a punto un manuale per la prevenzione della produzione del rifiuto a livello domestico, insomma si sono attivate poi anche su altri settori. Questo dal lato delle famiglie che hanno partecipato, però poi dopo questo tipo di progetti può avere mille sviluppi. Sappiamo che per esempio un insegnante che ha partecipato ha provato a fare il Cambieresti nella scuola in cui lavora, anche dal lato del comune c'è stato un seguito per cui sono nati altri due progetti che sono il Cambieresti Energia 300x70, che ha coinvolto un numero più limitato di famiglie sui temi specifici che riguardano l'energia domestica e la possibilità di fare delle ristrutturazioni, Questo progetto poi è stato riproposto a livello europeo e ha coinvolto tra gli altri partner Berlino, Londra, Kastanen, Svezia. Ed è partito da Venezia? È partito da Venezia, dall'Agenzia Veneziana per l'Energia, con la nostra collaborazione, si chiama Eco Action. Diciamo è stata un po' un'esportazione del format cambieresti, seppur limitato alle questioni energetiche. Prima è nato il cambieresti energia 300x70 e poi l'Eco Action. Però poi anche a livello come dire, italiano, diciamo un po' dopo le presentazioni che mi hanno fatto in giro un po' dappertutto, altre realtà, altri comuni hanno provato a rifare magari anche con altri nomi insomma questo tipo di percorso e insomma quindi la cosa si è un po' espansa a macchia d'olio insomma. E quindi come dire, il tema come dire, anche della decrescita, della possibilità di provare a praticare altri stili di vita sicuramente ha preso forza in questi ultimi anni grazie anche a cambieristi, non solo perché poi però insomma credo che abbia sicuramente contribuito a dissodare un po' il terreno insomma, su questo versante. Bene, Donadella, ringrazio di essere stato con noi, di averci dato queste spiegazioni e vi auguro di continuare il lavoro. Grazie a voi, grazie a voi. Il progetto del Comune di Venezia Cambieresti ha fatto scuola in tutta Italia, come sentivamo, da Campobasso alla provincia di Biella, al Comune di Colorno, a Somma Campagna, a San Felice sul Benaco, più di recente anche a Casalecchio di Reno e a Monte San Pietro in provincia di Bologna. Anche l'assessorato all'ambiente della provincia di Piacenza ha realizzato un'esperienza analoga e l'ha chiamata VISPO, un acronimo che sta per Vivere Sostenibilmente è Possibile. A VISPO hanno aderito su base volontaria 250 famiglie che si sono impegnate a modificare nel corso del periodo di attuazione del progetto almeno un comportamento del proprio stile di vita, un comportamento scelto in uno dei 10 settori previsti dal progetto, che erano molto simili a quelli scelti dal Comune di Venezia, ossia si trattava di risparmio energetico per la riduzione diretta del consumo, oppure tramite interventi sulle apparecchiature tecnologiche, risparmio idrico, rifiuti, quindi riduzione dei rifiuti alla fonte, riutilizzo, raccolta differenziata, compostaggio, alimentazione biologica e responsabile, addirittura hanno inserito anche la parità di genere, l'equità, la mobilità sostenibile, il consumo critico ed etico, ossia la scelta di prodotti locali, a preferenza di quelli di importazione, prodotti certificati con l'etichetta europea Ecolabel, prodotti riciclati, prodotti etici, ecosolidali. Poi si sono occupati anche di turismo responsabile, di finanza etica e di diritti degli animali, quindi per l'acquisto di prodotti non testati sugli animali, vestiti non ricavati da materiale di origine animale, condizioni di vita dignitose per gli animali da compagnia e così via. Ad ogni famiglia, e anche come nel caso di Venezia c'erano comunque anche dei single, è stata consegnata una guida sintetica al progetto, una guida che conteneva suggerimenti e riferimenti di bibliografia, riferimenti internet, riferimenti telefonici per ogni settore di comportamento, in modo insomma da dare un orientamento sulle scelte alternative che si potevano fare. Nei limiti delle risorse e delle sponsorizzazioni disponibili, così come nel caso di Venezia, è stato distribuito del materiale utilizzabile nell'ambiente domestico in sostituzione di quello tradizionale, lampadine a basso consumo e riduttori di flusso di acqua per i rubinetti. Ogni famiglia, da parte sua, si è impegnata a tenere controllati i risultati del proprio nuovo comportamento, quindi lettura dei contatori e delle bollette, registrazione degli acquisti, confronto dei prezzi e delle etichette, annotazione sugli eventi a cui partecipavano, anche con l'aiuto di un gruppo di tecnici di supporto al progetto. Come nel caso veneziano, sono stati formati dei gruppi locali di famiglie, più o meno 10 famiglie per gruppo, in modo da favorire anche le relazioni e lo scambio di esperienze e di proposte. E sono stati organizzati seminari specifici di formazione con i tecnici di supporto e con esperti esterni. Per esempio sono state organizzate le serate di ecologia domestica, laboratori di ecologia e altre iniziative simili. Ecco, un rammarico da parte del responsabile del progetto è quello di non aver dato abbastanza spazio al confronto sull'aspetto emotivo di questa esperienza, ossia le reazioni che questo nuovo orientamento induceva all'interno delle famiglie e nella cerchia degli amici. Anche VISPO comunque ha seminato bene, un gruppo di famiglie infatti sta proseguendo l'esperienza autonomamente a progetto ormai concluso. Una settimana a emissioni zero di anidride carbonica è l'esperienza che ha fatto l'inviato di Repubblica Paolo Rumiz, un'esperienza che ha raccontato in un articolo sul suo giornale, scrivendo tra l'altro: l'inizio è stato terrificante a causa delle tante regole penitenziali, ma ne vale la pena. Buongiorno a Paolo Rumiz, che è collegato al telefono con noi. Buongiorno a voi. Cosa l'ha spinta a fare questa esperienza? Beh, diciamo intanto un'idea del mio giornale. Io non ci avevo mai pensato, anche perché la mia vita era già molto orientata in questa direzione. Applicavo regole di questo tipo in modo molto istintivo, senza fare mai i calcoli, semplicemente adoprando le buone vecchie regole della nonna, insomma. Buttare via il meno possibile, usare l'acqua del sindaco e sparagnare, insomma, in poche parole. Anche se il mio reddito mi consente di vivere molto meglio, io non ho automobile, non ho televisione, insomma vivo abbastanza da monaco già così. Probabilmente al giornale hanno pensato a me per questo motivo. Che era la persona adatta. Però forse proprio da qui è partita la difficoltà, nel senso che per me poco era una vera scoperta. La vera scoperta, la vera difficoltà era quella, primo, di calcolare in modo razionale queste cose, in modo credibile. E secondo, quello di descrivere questa cosa non facendola vivere al pubblico come una privazione, ma anzi come una conquista, come una vittoria, addirittura come un miglioramento della mia qualità di vita. Senta, come le ha calcolate? Senza annoiare, naturalmente. Come le ha calcolate le emissioni di anidride carbonica e come ha scelto dove tagliarle, visto che dice che già faceva una vita abbastanza rispettosa, diciamo, degli equilibri ambientali? La prima difficoltà è stata quella di calcolare quanto già fossi più o meno virtuoso, quindi ho dovuto vedere da che livello partivo, perché non potevo contrabbandare come conquista una cosa che già facevo, che già detenevo, no? Senta, la sua settimana zero emissioni di anidride carbonica ha compreso anche il giorno di Natale 2007, che ha festeggiato, anziché col tradizionale pranzo ad alto tasso di colesterolo, con tonno marinato, sedano, cipolle e seppie in umido. Mm-hmm. Commenti di amici e parenti ce ne sono stati? Beh, tutti erano enormemente curiosi di vedere come mi ero ridotto, invece hanno trovato una persona che si divertiva come un matto. Anzi, sono stati risucchiati da questa cosa, da questa mia proposta. Ma il momento più interessante è stato quando a un certo punto abbiamo tolto la luce, abbiamo cominciato a fare la cena a lume di candela e questo ha seminato un bel po' di allegria. Sì, anche romantico. Sì, sì, ecco, appunto, ma il romanticismo non è un tasso ambientale, non è un indice ambientale. Invece il risultato è stato che tutti abbiamo comunicato molto di più. Il fatto di avere poca luce ha creato un clima di scambio e di comunicazione tra noi particolare, nuovo e anche consapevole, nel senso che lì tutto quadrava, soprattutto il teorema secondo il quale, ed è perfettamente giusto, quanto più energia consuma una società e quanto meno riesce a comunicare tra individui. E noi, consumando il minimo, avevamo raggiunto un livello di comunicazione tra noi che non avevamo raggiunto mai. Quindi eravamo felici di aver raggiunto il nostro scopo e questo rendeva ancora più allegra la riunione, no? Ricordavo che ha scritto: dopo un inizio terrificante si è reso conto che ne vale la pena. Cosa le ha lasciato questa esperienza, al di là del fatto che già lei appunto conteneva in partenza i suoi consumi energetici? Beh, la cosa che è cambiata di più è stata la spesa. Cioè, adesso mi è insopportabile ciò che prima mi era semplicemente fastidioso. Tipo frutta e verdura fuori stagione? Beh, non se ne parla. Frutta e verdura fuori stagione avevo già la odiavo prima. No, ma ho imparato a difendermi dalle confezioni luccicanti, da tutta una serie di cose, dalle quali ero già abbastanza immune perché non avendo TV non soffro di pubblicità. Ma diciamo la mia occhiata sugli scaffali dei negozi e soprattutto dei supermercati è molto più competente, molto più rapida nel capire cosa sì e cosa no. A parte che ora dei supermercati ci vado ma un decimo rispetto a prima. E dove fa la spesa? Mercatini? Sì, dove arriva la roba direttamente dal produttore, no? E poi, ma diciamo, le costa più tempo questo? Non uso, per esempio, ho abolito il freezer. Sono molto vicino ad abolire il frigorifero, sicuramente ad abolirlo durante le stagioni fredde, no? Ho sostituito molte cose che tenevo in frigorifero con il liofilizzato, con il secco. Uso la carne secca, uso la frutta secca. Bene, la ringrazio moltissimo di essere stato con noi e dell'esperienza che ci ha raccontato. Grazie a voi. Buon lavoro, a risentirci. Ciao. Vi ricordo che chi vi parla è Silvia Zamboni e che state ascoltando Effetto Terra su Radio 3 Rai. Ci stiamo occupando di cambiamento degli stili di vita per ridurre il consumo di risorse naturali e il nostro impatto sull'ambiente. Per stimolare l'adozione di stili di vita più ecologici, l'amministrazione provinciale di Ferrara ha puntato sui condomini, con due edizioni del progetto Condomini Sostenibili. Anche in questo caso l'obiettivo di base era diffondere nelle famiglie la consapevolezza che i nostri comportamenti quotidiani hanno ricadute sulla qualità dell'ambiente, in modo da stimolare l'adozione di buone pratiche ambientali. I cambiamenti di abitudini connesse alla vita condominiale sono stati associati ai vantaggi economici che ne possono derivare per i condomini nella gestione dello stabile. Idem per quanto riguarda il bilancio familiare. Il progetto Condomini Sostenibili, che ha coinvolto oltre un centinaio di appartamenti, anche di edilizia popolare nella prima edizione, ha fatto emergere i vantaggi economici legati all'adozione di comportamenti ecosostenibili, in particolare quelli collegati alla riduzione dei consumi energetici domestici, quindi elettricità, gas e acqua. I condomini sono stati scelti tramite un bando pubblico. Chi fosse interessato a chiedere alla propria amministrazione di avviare un'esperienza simile può trovare l'intera documentazione sul sito della provincia di Ferrara. All'inizio alle famiglie coinvolte è stato sottoposto un questionario per valutare la situazione da cui partivano rispetto ai cosiddetti acquisti verdi, quindi l'acquisto di prodotti biologici, la conoscenza e l'uso di prodotti che recano il marchio europeo Ecolabel, l'uso di apparecchiature per ridurre il consumo di acqua e di elettricità. Un'altra sezione del questionario riguardava i rifiuti, dall'uso dei prodotti usa e getta alla percentuale di raccolta differenziata, alla conoscenza dei servizi offerti per lo smaltimento dall'azienda che gestisce la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti a Ferrara. Infine, l'ultima parte del questionario riguardava i consumi energetici registrati dalle bollette di gas, acqua e elettricità dell'anno precedente. Per tutta la durata del progetto, alle famiglie partecipanti è stato anche chiesto di compilare delle schede con cui hanno monitorato i consumi di acqua, di gas, di luce e la quantità di sacchetti di rifiuti indifferenziati raccolti e le tipologie invece dei rifiuti raccolti separatamente. Facendo un bilancio, i risultati più significativi, comunque diciamo di un'azione che si è svolta in un arco di tempo limitato che non poteva produrre cambiamenti straordinari, comunque i risultati più significativi sembrano aver riguardato la raccolta differenziata. La frazione umida, infatti, nella durata del progetto è passata dal 9 al 45% di raccolta separata, grazie anche alla realizzazione di una compostiera condominiale. Ed è aumentato anche il numero delle famiglie che in assoluto facevano la raccolta differenziata. Alla fine di questo progetto ne è stato avviato un altro che ha avuto per target gli amministratori di condominio, che hanno potuto partecipare ad un corso di formazione che li ha messi in grado di contribuire alla diffusione del progetto Condomini Sostenibili. E non c'è dubbio che gli amministratori condominiali, proprio per il ruolo che svolgono, potrebbero avere un impatto molto positivo nella diffusione capillare nel nostro paese di queste scelte alternative. L'impatto anche promozionale, di stimolo, di esempio che potrebbero avere le amministrazioni pubbliche se decidessero di intervenire sulla propria impronta ecologica è, come si può immaginare, enorme. Su questo fronte è partita anche la Banca d'Italia, un posto, non c'è dubbio, dove si intendono del fare i conti. Il governatore Mario Draghi ha diffuso a tutti i livelli aziendali un documento intitolato Politica ambientale della Banca d'Italia che prevede letteralmente l'impegno a ridurre l'impronta ecologica della banca. Gli ambiti di azione citati sono uso razionale delle risorse, tramite un'attenzione sistematica all'efficienza energetica e alla riduzione delle emissioni di anidride carbonica, gestione ottimale dei rifiuti tramite l'estensione della raccolta differenziata e la promozione di forme di recupero, in particolare per i rifiuti costituiti da banconote triturate, leggiamo. Poi mobilità sostenibile, quindi si vuole promuovere l'utilizzo di soluzioni di trasporto a minore impatto ambientale. Gli acquisti verdi per l'acquisto di attrezzature, strumenti di lavoro e beni di consumo caratterizzati da un minore impatto ambientale lungo tutto il ciclo di vita. E controllo degli impatti indiretti, quindi mettendo in atto sistemi di approvvigionamento e appalto che riducano gli impatti ambientali, oppure promuovendo la diffusione della gestione ambientale anche presso i soggetti con cui la Banca d'Italia interagisce. Quindi un piano di azione veramente a tutto campo, e se lo fanno in Banca d'Italia, dove, ripeto, i conti li sanno fare, si capisce che c'è un ritorno anche economico e non solo ambientale. Per oggi ci fermiamo qui, vi do appuntamento a domani, sempre su Radio 3 alle 10.50 per la quarta puntata di Effetto Terra. Domani ci occuperemo di case di eccellenza nel settore residenziale e nel settore abitativo e delle migliorie che si possono apportare nelle proprie case e anche degli incentivi e dei benefici fiscali previsti a sostegno di questi interventi dalla finanziaria approvata nel 2007 e in vigore quest'anno. Per la parte tecnica ringrazio Leonardo Grasso e Alfredo Morana da Roma e Emanuele Righi da Bologna. Da Silvia Zamboni ancora l'augurio di una serena giornata. Effetto Terra di Silvia Zamboni. Un programma a cura di Patrizia Todaro. Regia di Paola Roli. Letture di Donato Graziosi. Il terzo anello @rai.it.